libro anche la Deborah, brava. Ne voglio, voglio quello sul metabolismo di Attilio Speciale. Va bene. Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E grazie, grazie di esserci, perché voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo. A fagiolo, ecco. Ma il cielo è sempre più blu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita rincorsa. Calcolare quanti soldi entrerebbero in famiglia se si accettasse l'opzione TFR in busta paga. Per redditi modesti, diciamo intorno ai 15.000 euro l'anno. Ti ricordi, Nico, ieri abbiamo fatto questo calcolo? 62 avevi detto, 66. Sì, 66. Insomma, intorno ai 60. Facciamo 60? Pochi, pochissimi diranno in molti, eppure a volte anche 60 euro, quando non ci sono, pesano sul bilancio di una famiglia. Pensate ad una, due bollette non pagate, e questa cifra può servire a pagarle, ed ecco, se non le paghi, queste bollette arrivano anche a staccarti la luce, cose che succedono persino nel 2015. La lista dei morosi delle bollette è sempre più lunga, lo ha rilevato l'autorità dell'energia e del gas. Oggi cercheremo di capire quante famiglie si trovano in questa situazione di difficoltà, come si possono prevenire le morosità delle bollette, cosa succede se non si paga e come si può rimediare dopo. 800 24 00 24, raccontate se vi siete trovati in questa situazione, se vi ci trovate adesso, voi, un familiare o un conoscente, cercheremo di affrontare questo problema insieme. Non paghiamo le bollette perché facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese, perdiamo il sonno per le preoccupazioni, per i pensieri, lo stress e gli affanni che questa crisi ha provocato e amplificato. Insomma, Deborah, i denari minacciano anche il cuore. Ma noi, come sempre, cercheremo di trovare insieme ai nostri esperti delle strategie per non farci mettere KO. A proposito di debiti, abbiamo parlato tante volte del debito di sonno e delle conseguenze sulla salute psicofisica che dormire meno del necessario comporta. E voi quante ore dormite a notte? Meno di 6? Fra 6 e 8? Più di 8 ore? Allora chiamateci, il nostro numero verde è a disposizione. Ci sono degli studi molto interessanti che correlano le ore di sonno e anche la qualità naturalmente del nostro sonno alla salute di cuore e cervello. Ne parleremo a partire dalle 11.45. Intanto voi occupateci solamente di dirvi, di dirci quante ore dormite. Meno di 6, fra 6 e 8 o più di 8. Al resto ci pensiamo noi. L'utente si deve pure organizzare, perché la bolletta va pagata e consiglio a tutti di pagarla. La bolletta subito, non la devi accumulare sullo scrittoio, perché le bollette si accoppiano. Tu ne hai lasciate due, c'hanno il codice a barre, hanno fatti i cuccioli, ma hanno moltiplicato. Devi andarle a pagare subito, non avere timori, perché vai a pagare, in modo tale che sei pronto per pagare le altre bollette. Tant'è vero che loro, chi gestisce, sa che tu le puoi pagare. Allora, la crisi economica è la motivazione più ricorrente, d'altronde fra luce, gas, acqua, le spese per il riscaldamento sono tutte voci che gravano a volte anche in maniera abbastanza pesante sul bilancio della famiglia, spese fisse sulle quali risparmiare a volte è praticamente impossibile. Si può cercare un po' di ridurle, ma insomma azzerarle non si può, perché tanto un po' di luce dobbiamo accenderla, un po' di acqua la dobbiamo usare, in questo periodo ci dobbiamo riscaldare. Ecco allora che a volte si accumulano, rimangono indietro fino a cominciare a ritardare in maniera patologica i pagamenti e a diventare morosi. Questo capita a qualche famiglia. L'autorità per l'energia mi piace patologica, vedi? Cuore Denari, d'altronde lo sai che trova ogni giorno dei fil rouge. Fisiologico, patologico. L'autorità per l'energia, nel monitoraggio retail, ha reso noto che nel 2013 le richieste per le famiglie di sospendere i pagamenti del servizio elettrico sono state 1.770.760, una crescita del 9% sull'anno precedente. Oggi vediamo a cosa viene attribuita questa situazione, dove è più diffusa, cosa si può fare per rimediare, soprattutto noi interessa questo. Quindi do il buongiorno subito a Clara Poletti, direttore mercati dell'autorità per l'energia e il gas. Buongiorno dottoressa Poletti, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. E poi un ringraziamento anche a Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, Centro per i diritti del cittadino. Ben ritrovato anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eccoci qui. Allora, è l'unico uomo, eh? Attenzione, è dura, attenzione. Allora, numero per i nostri ascoltatori sempre lo stesso, è l'800240024. Intanto date un'occhiata all'ultima bolletta. Quanto pagate per luce, gas, acqua? Vi siete mai trovati a dire questo mese non ce la faccio? Come vi siete comportati? Raccontateci se vi siete trovati in questa situazione, se vi ci trovate adesso, se sta capitando a un vostro familiare, a un conoscente. Scrivetecelo anche se volete al 349-238-6666, su Facebook, su Twitter potete scriverci dove volete. Dottoressa Poletti, comincio con lei perché avete diffuso come autorità per l'energia e il gas proprio nelle scorse settimane i dati relativi alla morosità. Ci riassume le evidenze più significative? Sì, dunque in questo rapporto che guarda gli anni 2013 e 2012 sono state riportate delle statistiche che riguardano le richieste di sospensione della fornitura, quindi o di elettricità o di gas, quando viene tolto a seguito di un periodo prolungato di mancato pagamento la fornitura appunto di elettricità o gas ai clienti. Andiamo a vedere quali sono i tassi di richiesta effettiva di sospensione e l'efficacia di queste sospensioni, e quello che è preoccupante è che in effetti le sospensioni di fornitura hanno riguardato un numero rilevante di clienti, sia nell'elettricità che nel gas, come è stato segnalato prima, circa il 6% dei clienti domestici nel settore elettrico nel 2013 ha avuto una richiesta di sospensione, l'11% circa dei clienti collegati in bassa tensione, che vuol dire servizi, negozi, piccole imprese, e il 14% delle imprese un po' più grandi collegate in media tensione. Quindi il fenomeno è rilevante. Nel gas, se guardiamo i domestici e i condomini, andiamo all'1,9% per i domestici, 2,9% per i condomini. Quando si aumenta di dimensione, però, anche qua le percentuali salgono anche fino al 14%. Va rilevato però, guardando questi dati, che non tutte queste richieste di sospensione portano alla sospensione effettiva, perché molte, per alcuni clienti di più, per altri di meno, si risolvono con una revoca di richiesta di sospensione per pagamento. Per esempio, se prendiamo i domestici nel mercato libero, nell'elettricità, a fronte di una richiesta di sospensione molto elevate, perché siamo sopra il 9%. Quando lei parla di richiesta di sospensione, significa che l'utente si attiva per conto suo e chiede una momentanea sospensione, dottoressa Poletti? No, esattamente. No, è perché non paghi. Scusi, in effetti è giusto questo chiarimento. Significa che quel cliente è moroso, non ha pagato quanto dovuto, e quindi il suo venditore si rivolge al distributore per chiedere che il punto di fornitura, dove c'è il misuratore, venga chiuso sostanzialmente. Certo. Quindi il cliente, dopo la chiusura, si trova senza elettricità o senza gas. Quindi è una cosa sicuramente di impatto per il consumatore finale, che si ritrova. Certo. Ma posso chiedere, dopo quante bollette non pagate capita questo? Che chiudono insomma la luce e il gas? Allora, ci sono delle regole che normano la cosiddetta costituzione in mora. Dopo una bolletta non pagata, che cosa succede? Noi abbiamo che dall'emissione della bolletta ci sono 20 giorni per pagare. Di solito seguono dei solleciti, dopo, se prosegue il mancato pagamento, c'è l'obbligo del venditore di comunicare con raccomandata la costituzione in mora, ci sono altri giorni, circa 10 giorni per poter pagare. A quel punto il venditore può chiedere al distributore che venga sospesa la fornitura. Non è però insomma come dire proprio in automatico, ecco, esatto, un po' di tempo c'è per consentire agli utenti in difficoltà di ripristinare una situazione di pagamenti regolari, no, dottoressa Poletti? Quello che stavo dicendo è infatti che molti, a fronte di una richiesta di sospensione, molti in realtà pagano e quindi la sospensione poi non avviene. Ecco qua. Luigi Gabriele, vengo anche a lei, all'attività sul territorio delle associazioni dei consumatori, che naturalmente si confrontano ogni giorno con molti consumatori, per l'appunto, che affollano loro malgrado gli sportelli per tante problematiche. Per questa situazione che stiamo analizzando questa mattina, cosa rilevano le associazioni dei consumatori? Le difficoltà nel pagare, da che cosa derivano a prescindere dalla crisi economica? Ci sono anche quelli che sono un po' leggeri nel rispettare le scadenze, un po' per carattere, dicono vabbè, mi è scaduta il 5, anche se la pago il 15, che cosa sarà mai? Per qualcuno invece addirittura è un'onta imperdonabile che non si fa, ce lo insegnano molti dei nostri papà. Voi che cosa potete dirci a questo proposito? I consumatori italiani hanno sempre avuto grande rispetto nel rispettare i termini di scadenza delle bollette, soprattutto di energia e gas, perché nessuno vuole trovarsi senza la fornitura di energia o rimanere al freddo d'inverno. Il tema fondamentale è che nella rilevazione dell'autorità si evince che quelli che non pagano l'energia, in numero molto maggiore, non sono i consumatori finali, i piccoli consumatori, ma sono i cosiddetti soggetti che sono nella salvaguardia, ovvero quelli che non si possono disalimentare, i comuni, gli ospedali, le scuole, le grandi aziende, cioè tutti coloro che rientrano in questa categoria. E si capisce abbastanza bene anche che il fenomeno della morosità per i consumatori, piccoli consumatori, per i finali, non è legato tanto a questioni di natura di crisi economica, ma soprattutto a disagi di servizi che pongono il consumatore in un contesto nel quale, non capendo cosa deve pagare, quanto deve pagare realmente, inizia con la trafila del reclamo, della conciliazione, del contenzioso con il proprio fornitore, ritrovandosi spesso, nonostante stia in questa fase, a vedersi chiusa la fornitura, nonostante potrebbe avere anche ragione. Quindi, tanto per fare un esempio, arriva un conguaglio incomprensibile dall'importo del tutto ingiustificato secondo l'utente finale, quindi ecco che lì si blocca, come dire, la bolletta, la pratica, perché il consumatore la contesta e da lì parte il contenzioso. Allora in automatico c'è un contenzioso, il tizio non paga, e come dire, lui viene subito identificato come moroso, in realtà c'è un contenzioso in atto. Adesso non dico che siano un milione di casi, però statisticamente sono rilevanti, ecco. Noi associazione consumatori non siamo mai stati dalla parte di chi non paga e non vorremmo mai essere da questa parte, però il tema fondamentale è che l'autorità non chiarisce in questa indagine quali sono i motivi per i quali il soggetto è definito moroso, perché dall'indagine tutto ciò non si evince, si evince soltanto che ci sono delle richieste in numero pari a tot per i vari tipi di mercato, ma noi che conosciamo il fenomeno intuiamo facilmente che gran parte delle morosità, ad esempio nel mercato libero, siano dovute soprattutto negli anni 2012 e 2013 al cosiddetto fenomeno dei contratti non richiesti. La stragrande maggioranza di persone che si sono trovate attivate delle forniture contro la propria volontà o senza nemmeno saperlo, da un momento all'altro si sono trovate anche con la fornitura chiusa, perché se non sapevano che quella fornitura era attivata presso un altro operatore, non sapevano evidentemente nemmeno che quell'operatore stava attivando la fornitura. Situazioni che voi come dire, denunciate anche attraverso l'attività del vostro progetto Energia Diritti a Viva Voce, che mette insieme l'attività di 18 associazioni dei consumatori, poi ne parleremo. Gabriele, volevo chiedere alla dottoressa Poletti allora perché l'indagine che l'autorità fa è solo di, come dire, natura quantitativa e non anche qualitativa sulle motivazioni per cui c'è questa crescita enorme delle situazioni di morosità, così almeno rispondiamo anche alle indicazioni delle associazioni dei consumatori. Certo, io non volevo solo chiarire una cosa, sì. La regolazione prevede che la sospensione della fornitura non possa avvenire se l'esercente non ha risposto ad un eventuale reclamo scritto su malfunzionamento del misuratore o su fatturazione anomala per importi rilevanti o con guagli di entità anomala, per cui un primo intervento che il regolatore fa è di proteggere, tutelare il consumatore verso situazioni che ancora diciamo non chiarite, per impedire che si possa arrivare naturalmente alla sospensione della fornitura per un disguido di qualunque genere. E nel tempo, adesso non voglio così, i dettagli poi regolatori sono tanti, nel tempo si sono previste tante norme in questo senso, non ultimo il fatto che la Costituzione Mora debba essere comunicata con raccomandata, con scritti dei tempi precisi a cui il consumatore deve poter rispondere sollevando obiezioni. Quindi un modo per regolatorio per affrontare questo genere di problemi è cercare di migliorare sempre di più le condizioni in cui e le tutele per il consumatore. Per quanto riguarda poi le ragioni della morosità, noi abbiamo proprio attivato questo monitoraggio per basare sempre di più i nostri interventi su elementi fattuali concreti e anche quantitativamente rilevanti, perché è una rilevazione che coinvolge molti venditori, molti distributori, e quindi il nostro sforzo è sicuramente di migliorare da questo punto di vista. Questo è un primo passo, andremo avanti sui contratti non richiesti, per esempio c'è un capitolo intero nel rapporto, quindi non c'è assolutamente una volontà di analisi un po' ottusa del numero, ecco, ma una volontà di comprendere. Non abbiamo neanche commentato in questo senso, ovviamente, la natura del rapporto, era solamente per capire. Poi chiaramente ricordiamo anche che si riferisce l'ultimo rapporto agli anni 2012-2013, in realtà forse oltre all'ottusità forse andrebbe fatto anche più aggiornato, perché poi questa crisi ogni giorno ci racconta delle pieghe diverse. Detto questo, prendiamo assolutamente atto delle iniziativa appunto dell'autorità del gas ed energia sulla necessità di fare chiarezza in un mercato molto molto confuso, e soprattutto su questa piaga dei contratti non richiesti, che non si capisce perché più le società vengono multate, sanzionate, e più riescono a farne. Quindi veramente bisognerebbe fare una grandissima campagna di educazione fra le persone che però, pur di risparmiare, qualche volta accettano anche di firmare dei contratti dove ci sono delle promesse un po' stravaganti ma che sembrano veritiere. Sentirei un paio di ascoltatori, se ce la facciamo, sì, prima dei mercati. Direi di cominciare con Novella, che ci chiama da Roma. Sì. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Devo dire che io proprio oggi ho un appuntamento con l'Unione Consumatori ed è un problema inverso a chi non vuol pagare. Io voglio pagare, ma da giugno 2014 ho la fatturazione bloccata. Sì. E ho fatto, acquisiscono le letture, le mando tutti i mesi, ogni bimestre, non si sa perché è bloccata questa fatturazione, e sono andata anche, essendo a Roma, Piazza Ostiense, e mi dicono è bloccato. E senta, è Acea la compagnia? È Acea Energia. Io ho fatto anche una raccomandata scaricando da internet il modulo dove mi sembra che dovrei anche avere un rimborso. Addirittura. Niente, sì. No. Novella, guardi, se questo la può consolare, sappia che lei è a Roma. In ottima compagnia, Luigi Gabriele, qua, insomma, io e Gabriele ci siamo conosciuti proprio in occasione di una simpatica puntata su Acea, Roma, per cui non so ancora perché a distanza di tutto questo tempo continuiamo a raccontare di situazioni di disagio, di impossibilità di dialogare con questa società. Non lo so, vogliamo un po' riepilogare le motivazioni per cui ci sono tante novelle sparse sul territorio del Lazio? Luigi Gabriele. Facile, perché la regolazione vigente prevede una serie di tutele, è vero, ma sono così fragili che sono arginabili in una maniera molto semplice. Quando la Poletti dice ci sono dei vincoli, non si può sospendere, è assolutamente vero in parte, ma anche falso, perché le aziende spesso non rispondono ai reclami degli utenti, e nel momento in cui l'utente ha fatto già il reclamo, quasi sempre l'azienda nello stesso momento ha già venduto il credito, e quindi dopo nemmeno 15-20 giorni già ci si trova con la chiamata del gestore del credito, il famoso recupero crediti. Quindi al di là della raccomandata, che poi è semplice, non è una raccomandata con ricevuta di ritorno, il consumatore dinanzi a tutto questo ha come uniche tutele degli indennizzi spesso ridicoli di 20-30 euro. Ma voi vi immaginate dinanzi a un conguaglio di 5-6 mila euro che uno deve verificare con esattezza se basta un indennizzo di 20 o di 30 euro per la mancata risposta al reclamo o per la mancata mancato rispetto della procedura di morosità. Ad Acea è accaduto che negli ultimi anni ha fatto presente all'autorità di voler rispondere ai consumatori con una serie di impegni, infatti non è stata sanzionata. Ha proposto degli impegni all'autorità che prevedono tra l'altro dei piccoli indennizzi che vanno dai 15 ai 20 euro dei consumatori ai quali non rispondono ai reclami, ai quali non emettono la fatturazione in consumo effettivo. Certo. Tutto questo pone le società ovviamente a avere una certezza di non dover rispettare in maniera pedissequa la regolazione vigente, e il consumatore dall'altra parte invece si trova. Quindi secondo lei, adesso per sintetizzare un po' il caso anche dell'ascoltatrice Novella, cosa si deve aspettare? Lei ha praticamente questa situazione in cui da giugno, se non ho capito male, non riceve fatturazioni, continua comunque a trasmettere i dati dei suoi consumi, non riceve nessun tipo di comunicazione da parte dell'azienda fino al giorno in cui le arriverà una mega bolletta che non sarà neanche in grado di stabilire se è corretta per i consumi che ha effettuato. Cosa deve fare? È proprio così. E oggi la regolazione gli dice di fare reclamo, il consumatore continuerà a fare reclamo, l'azienda dall'altra parte, fin quando non risolverà i problemi strutturali interni, non risponderà al reclamo, non emetterà questa fattura. Ci troveremo, come lei ha detto, dinanzi a una fatturazione conclusiva di conguaglio, che probabilmente sarà di qualche migliaio di euro, che il consumatore non potrà fare nient'altro che rateizzare, spalmare nel tempo, e quindi andare a crescere il suo sovraindebitamento familiare già notevolmente appesantito. L'autorità in questo senso dovrebbe meno accettare impegni di ripristino e più sanzionare in maniera severa, in modo tale che le aziende si sbrighino a emettere la fatturazione in consumo effettivo e a rispondere severamente ai reclami dei consumatori. Che qualche volta ci sembra che tutte queste sanzioni non servano, perché ne prendono una marea, ma a loro conviene di più comunque andare a caccia di clienti e comportarsi in questa maniera. Cioè, mettono già a bilancio queste sanzioni e le pagano e non succede nulla. Vabbè, intanto succede che siamo in straritardo per i mercati. Li faccio? Che dici? Io direi di sì. Cuore e denari. Sa se stai dormendo, a cosa stai pensando? Chissà se stai dormendo. E vabbè, dormi, ma lo sappiamo bene, chi dorme non piglia pesci, ma chi non dorme rischia grosso la carenza di sonno. L'abbiamo detto e sentito dire tante volte dagli esperti che sono intervenuti a Cuore Denari: influenza il metabolismo, fa aumentare la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, che ha ricadute sulle risposte immunitarie, e fa aumentare la pressione sanguigna, che è un fattore che può condurre ad una maggiore incidenza di disturbi cardiovascolari. Senza contare che a farne le spese sono il nostro umore, la capacità a concentrarci, la nostra attenzione e la salute generale del nostro cervello. Ma in questi giorni una ricerca di un'università inglese pubblicata sulla rivista Neurology mette in guardia anche dai rischi del troppo sonno. Chi dorme in media più di 8 ore al giorno avrebbe un rischio maggiore del 46% di essere colpito da un ictus. Commenteremo tra poco questi dati insieme al dottor Roberto Sterzi, neurologo all'ospedale Niguarda di Milano. Intanto voi diteci quanto dormite e soprattutto come state. 800 24 00 24. Mi vuol dire quello che desidera? Ecco, mi è arrivata questa bolletta. E con ciò? Come con ciò? La guardi bene. 1.750.822 lire. E con ciò? E come 1.750.822 lire? Ebbene, e io ripeto a dire, e con ciò? Come con ciò? E vuol dire che le hanno conteggiato i conguagli. A me? Sì. Guardi che a me la cacciagione non piace. E non vedo chi può asserire che io durante l'anno spenda 1.750.822 lire per comprarmi le quaglie. Allora, per fortuna Franco e Ciccio ci strappano una risata, molti ascoltatori che ci stanno scrivendo invece con una situazione molto confusa, con le bollette che arrivano, ridono molto poco, non si riesce a stare neanche al passo con i tempi a volte, con i pagamenti, anche per cui lì altri scenari che si aprono di morosità, a volte provocata dalla crisi economica che ci fa riorganizzare un po' il bilancio, in altri casi invece sono delle situazioni di contenziosi e conflitti con le aziende che invece ci fanno ritardare dei pagamenti. Insomma, un mix di fattori che è stato fotografato da questa indagine dell'autorità del gas e dell'energia che ci è stata raccontata dalla dottoressa Poletti, appunto, dell'autorità, e poi tanti casi da parte dei nostri ascoltatori che stanno come sempre animando il nostro programma. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi per questi ultimi minuti dedicati ai problemi con le bollette, e insieme a noi c'è anche Luigi Gabriele di Codici, Centro per i diritti del cittadino. Volevo sentire Michele dalla provincia di Lodi, perché qua parliamo di una situazione un pochino più delicata, quindi non il contenzioso con la famosa CEA di Roma, che ne ha tantissimi aperti. Michele, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Sì, ci può benvenuto, ci racconti Michele. Ma io sono entrato in un circolo vizioso, a parte vabbè il fatto che ho perso il lavoro, sono un papà di 52 anni, separato, vivo in un piccolo appartamentino di 18 metri quadri. Il problema è stato che questo appartamentino è stato praticamente restaurato l'anno scorso, e perciò non c'erano le caselle della posta, non c'era niente. Quando io ho cambiato appartamento dal piano di sopra al piano di sotto, non sapevo che bisognava rifare tutto, la residenza, le cose. Praticamente Enel ha cominciato a fatturarmi il doppio, perché diceva che io non ero residente in quell'appartamento lì. La cosa pazzesca è che non si riesce a bloccare nulla, perché tu ogni volta che chiami il numero verde ti risponde sempre una persona nuova, ti manda i documenti da spedire, tu glieli spedisci, poi ti dice che non erano giusti, poi mi è arrivata una lettera dicendomi che non ero congruo. Morale, sono riuscita ad accumulare 600 euro di corrente non pagata, senza che fra l'altro me l'hanno staccata a gennaio, senza neanche preavviso. Prima mi hanno messo 10 giorni in una situazione, praticamente accendevo due lampadine e mi si staccava la corrente, dopodiché senza nessun avviso mi hanno proprio tagliato fuori. La stessa cosa è successa col metano, uguale. Due bollette, tolto proprio totalmente il metano alla vigilia di Natale. Certo. Michele, senta, in tutto questo, adesso siccome ci si stringe il cuore al pensiero di un papà di tre bimbi in una situazione così difficile, in un monolocale 18 metri quadri, quantomeno, ecco, se abbiamo un collegamento internet in qualche modo, se ci può scrivere, appunto, magari ricostruendo rapidamente la pratica con i nomi delle due società, vediamo un po' quello che possiamo fare senza ovviamente miracoli. Detto questo però, Luigi Gabriele, quello che volevo dire io, quando le situazioni difficili si preannunciano magari un po', è chiaro che Michele si trova in una condizione emotiva in cui la lucidità per gestire poi queste cose non è che la troviamo facilmente, no? Passano in secondo piano, diciamo, ecco. Così detto questo, qualora io magari mi ritrovassi in una momentanea situazione di difficoltà economica, no, come capita per esempio, non so, con la banca e non riesco a pagare la rata del mutuo, oggi possiamo andare bene o male tentando, no, di bloccarlo, di sospenderlo, ci sono delle iniziative in corso per poterlo fare. Con le società che distribuiscono servizi di questo tipo, secondo lei si può fare la stessa cosa con un anticipo, diciamo, di informativa? Si può dire sono in difficoltà, non riuscirò a pagare, possiamo già pensare di fare che cosa? Gabriele. No, con l'energia elettrica e il gas, se si è nel mercato tutelato, al massimo si può chiedere la rateizzazione degli importi. E se ne ha diritto, è la stessa l'autorità che lo stabilisce. Nel mercato libero è un po' diverso, perché dipende dal tipo di contratto che si è sottoscritto, è anche possibile che nel tipo di contratto non si preveda la rateizzazione. Per il sostegno ai cosiddetti incapienti, coloro che non ce l'hanno, ci sono i cosiddetti bonus. Bravo. Ma sono degli importi estremamente, mi passi il termine, insufficienti, perché parliamo di poche decine di euro all'anno, sì che è vero che aiutano, ma i requisiti che si devono avere sono così elevati che ad esempio la persona che ha appena chiamato non rientrerebbe, perché immagino che sia separato ma i figli non so se sono a carico suo o della moglie, ma se non ha un reddito al di sotto dei 7.500 euro ISE già non avrebbe diritto in questo caso. Il termine è che noi dobbiamo fare in modo che il consumatore sia consapevole di pagare quello che consuma realmente, quindi lo dobbiamo educare a controllare benissimo i suoi consumi e ridurli all'origine, soprattutto se è incapace di far fronte alla fornitura. Il problema è che però adesso le letture avvengono anche a distanza, no? Perché siamo tutti dotati di questa tecnologia nuova, ma le società in ogni caso continuano a fatturare consumi presunti e lì non ci mettiamo mai a pari, Gabriele. Questo è un'evoluzione del problema, direi, di cui l'autorità forse deve farsi carico. Adesso non riesco neanche a far commentare la dottoressa Poletti perché stiamo chiudendo. Chiedo a lei una chiosa finale. Ma infatti fosse così. Il problema è che con i 30 milioni di contatori elettronici che abbiamo nel nostro paese, noi ancora siamo costretti a dover fare la comunicazione autolettura. Quindi mentre per il distacco della fornitura ciò non avviene, perché in automatico basta premere un pulsante e avviene il distacco, la riduzione di potenza. Ma detto ciò, c'è anche il fatto che noi in bolletta paghiamo un buon 14-20% di oneri che si chiamano misura e distribuzione, che dovrebbe servire appunto a far funzionare correttamente il sistema di lettura, misurazione e distribuzione dell'energia e del gas. Quindi perché dobbiamo continuare a pagare questi oneri se poi non abbiamo nemmeno il controllo? È vero, lasciamo il peso della tassazione degli oneri in bolletta è elevatissimo. Dottoressa Poletti, 30 secondi ce la faccio. 30 secondi, volevo solo dire grazie. Che ci stiamo lavorando anche sulla messa vero. A disposizione dei dati di misura, c'è un'istruttoria aperta anche in attuazione della direttiva sull'efficienza energetica. Senta, quindi a questo papà di 3 bambini con tutte queste difficoltà, questi ritardi, cosa possiamo fare? Di chiamare lo sportello, l'autorità c'è, lo sportello numero verde 800 166 654. Lo mettiamo anche naturalmente sulle pagine Facebook, di Cuore Denari, e poi magari richiamiamo il nostro papà in difficoltà e vediamo un po' di rimetterlo in sesto, quantomeno con la luce e con il metano. Carmine da Bari ci scriva e risponderemo anche a lei, voleva sapere tecnicamente di quanto si può ridurre la potenza dell'energia elettrica per morosità, perché praticamente lo spegnimento avviene con gradualità. Nicoletta, vabbè, insomma, qua stamattina abbiamo imparato tante cose. Ci ritorneremo su questi argomenti, perché la bolletta di ogni tipo è assolutamente democratica, arriva a tutti, interessa a tutti, per cui oltre che risparmiare dobbiamo adesso imparare anche a difenderci a tutte queste dinamiche nuove del mercato. Andiamo a sentire adesso che cosa succede sulle strade e le autostrade. Ringrazio solo rapidamente Luigi Gabriele e Clara Poletti. E tornate presto a trovarci. Traffico. Buona giornata. Potete restare con noi e intanto invitiamo i nostri ascoltatori a prenotare i vostri interventi. Stanno arrivando moltissime telefonate all'800 24 0024. Sonno protegge il nostro cervello? Cuore e denari. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Che confusione, ma questa volta non è colpa dell'amore, come cantavano i ricchi e poveri. C'è il musical a Milano, l'hai visto? Sì. I cartelli, ragazzi, che storia. Bene, noi non parliamo di confusione creata dall'amore, ma dai risultati di ricerche che sembrano tra loro contraddittorio. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda le ore di sonno. Se riposare poco e male ci espone a rischi importanti per la salute, sembra anche che dormire troppo, oltre le 8 ore al giorno, ci esponga a un maggiore rischio di ictus. La domanda sorge spontanea, ma a chi dobbiamo credere? Lo chiediamo al dottor Roberto Sterzi, neurologo all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno dottor Sterzi, bentornato. Buongiorno a voi. Dottor Sterzi, allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di dirci quante ore dormono e come stanno. Intanto è un invito che rinnoviamo, 800 24 0024. Di questo tema abbiamo parlato tante volte con lei e con i suoi colleghi, neurologi, esperti di sonno. Abbiamo finalmente imparato che il sonno ha un ruolo fondamentale per la nostra salute, tanto che voi ci dite di cercare di riposare bene, di non andare in debito di sonno, di non sottovalutare l'insonnia, perché il sonno ha un ruolo protettivo per la salute psicofisica, però anche dormire troppo fa male. Allora, come la mettiamo? Ci aiuti a leggere tra le righe di questo studio che crea parecchia confusione e ci spieghi anche la relazione che esiste tra sonno come quantità e qualità di sonno e salute del nostro cervello. Ma partiamo da questo studio inglese. Che cosa ci racconta? Allora, è uno studio molto interessante perché gli scienziati che si sono occupati di questo studio hanno seguito più di 9.000 persone per diversi anni, per più di un decennio, sì, e sono andati a fare delle correlazioni, a capire se c'erano delle correlazioni tra il sonno e il rischio di ictus. E con loro sorpresa hanno scoperto che una cosa che sapevamo, cioè dormire poco fa male, ma quasi fa più male dormire troppo. Sembra un paradosso. Sì. In realtà non è proprio così. E loro ci sono premurati anche di fare quella che si chiama meta-analisi, cioè sono andati a vedere altri studi, una ventina di altri studi che prendevano come riferimento lo stesso problema e hanno visto proprio questo, che dormire poco aumenta del 15% il rischio di ictus, dormire tanto, questo è il risultato della meta-analisi, aumenta del 45% il rischio di ictus. Quindi il messaggio dovrebbe essere, no? Cercate di dormire il giusto, quello, anche se... Quello che Dedalo insegnava ad Icaro nelle Metamorfosi, diceva che in mezzo sarebbe andato bene, se si fosse avvicinato troppo al sole le ali si sarebbero sciolte, troppo basso sarebbe finito in mare, è lo stesso. Quindi il mezzo, il giusto mezzo è quello che dobbiamo cercare di seguire, ma anche perché sì, il dormire poco porta tutta una serie di conseguenze proprio legate anche ai fattori di rischio dell'ictus. Cito solo una cosa che è quella che si ricorre spesso quando si parla di questo problema, cioè l'influenza di ormoni della sazietà e della fame sul sonno, no? Sapete che c'è la grelina che stimola l'appetito e la leptina. Sì, infatti abbiamo detto tante volte chi non dorme tende ad ingrassare, per dire, no? Ecco. Bravissima. Ecco, questo è un esempio dell'effetto del dormire poco. Invece è molto interessante capire perché dormire tanto, cosa significa dormire tanto. Ecco, dormire tanto può essere non fare attività fisica, cioè infatti se si va a vedere il confronto fra le diverse coorti dei grandi dormitori, piccoli dormitori, normali dormitori, una differenza che emerge subito molto importante è che chi si muove meno è quello che dorme di più. Banale. Quindi i dormiglioni avrebbero anche uno stile di vita meno sano, diciamola così, meno dottor sano, Sterzi. Ricorrerebbero più frequentemente all'uso di farmaci per l'ipertensione e avrebbero più facilmente episodi depressivi comunque potrebbero essere coinvolti in o utilizzare farmaci che possono... Quindi è lo stile di vita nel suo complesso delle persone che dormono di più che espone ad un rischio maggiore di ictus rispetto invece a chi è sempre lì che si risveglia e quindi la mente ha anche tutta una stanchezza mattutina, una difficoltà a concentrarsi, perché lo sappiamo che a dormire poco si fa fatica poi il giorno dopo. E come ci racconta Gabriele da Bologna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Oggi insieme a Gabriele e a tutti gli ascoltatori che intervengono all'800 24 00 24, partendo da questa ricerca vogliamo capire la relazione tra sonno e cervello, no? Qualità e quantità di sonno, ma anche, dato che la ricerca si riferisce all'ictus, quali sono, oltre al sonno, i fattori di rischio per fare prevenzione. Gabriele, buongiorno, lei è un dormiglione o un breve dormitore? Ma direi assolutamente non un dormiglione, perché durante la settimana non dormo più di 4 ore la notte. Ah, però. Mentre nel weekend arrivo a 7-8. e denari. Amore, scusa, ti vorrei notiziare sul mio tipo di sonno, che nella sua prima fase, essendo molto rapido, è anche, ahimè, molto leggero. Quindi ti pregherei proprio la massima cautela nei movimenti con i piedi e soprattutto con le lenzuola. Entriamo nelle braccia di Morfeo? Sì, Raniero. Centriamo? E noi siamo tornati, stiamo commentando i risultati di una ricerca che ha messo in evidenza una correlazione tra ore di sonno e rischio di sviluppare un evento cerebrovascolare molto grave, l'ictus. Ne stiamo parlando con il dottor Roberto Sterzi, che è neurologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Dottor Sterzi, qua c'è da spiegare, abbiamo capito che rischia sia chi dorme poco che chi dorme troppo, no? Paradossalmente chi dorme troppo. Troppo, perché chi dorme troppo rischia di più, ecco, di incorrere in un rischio di ictus. Tra l'altro, naturalmente, i nostri ascoltatori a cui abbiamo chiesto di raccontarci quanto dormono in media per notte, meno di 6 ore, tra le 6 e le 8 ore, più di 8 ore, ci stanno chiedendo quali sono allora le ore, no, corrette, giusto, adeguate, le ore giuste. Noi sappiamo che con l'età il bisogno di sonno diminuisce e sulla pagina, sì, di Cuore Denari abbiamo messo i dati della National Sleep Foundation, che dopo 2 anni di ricerche ha pubblicato le nuove linee guida per fasce d'età. Ma è intuitivo, i neonati dormono molto, anche, no, tra le 14 e le 17 ore di sonno, tra gli 0 e i 3 mesi, certo, mentre gli anziani dai 65 anni in su necessiterebbero di 7-8 ore di sonno, ma la National Sleep Foundation dice anche meno, potrebbero dormire anche tra le 5 e le 6 ore. Tutto questo per dire, dottor Sterzi, ci aiuta a capire che relazione c'è tra il sonno e la salute del nostro cervello? Perché ci sono delle ricerche che hanno correlato anche la qualità e quantità di sonno all'Alzheimer, ma che cosa succede? Ci spiega? Ma il sonno è fondamentale per fare una sorta di reset, per risistemare, per dare una necessità. Chi non dorme può, ci sono addirittura delle malattie che privano del sonno e portano a morte il paziente. È importante riuscire a dormire. Poi sappiamo che il sonno non è omogeneo, ma ci sono diverse fasi di sonno un po' più leggero, di sonno profondo e di sonno con i sogni. La giusta miscela che cambia con l'età è altrettanto importante delle ore di sonno dormite. Non solo, ma durante il sonno possono verificarsi un insieme di fenomeni. Per esempio, noi abbiamo dimostrato a Niguarda con il dottor Lino Nobili una correlazione fra un disturbo molto più comune di quanto non si pensi, che è l'apnea da sonno, cioè le persone che dormono, a un certo punto se ne accorge il compagno, sta male anche chi ce l'ha, che fanno un grosso respirone come se gli mancasse l'aria, e davvero gli è mancata l'aria per un certo periodo. Solitamente russano, questo, poi smettono di russare, il compagno dice e vai, bravi, finalmente, invece no, in quel momento di silenzio il vostro partner rischia, vero? Certo, perché abbiamo visto che se concomita un altro disturbo, che un quarto delle persone ce l'ha, in sé per sé non è, se uno non fa le immersioni non è un dato patologico, che il forame ovale pervio, o non ha trombosi venose profonde, che il forame ovale pervio, l'associazione tra forame ovale pervio a livello del cuore e apnea da sonno può favorire l'ictus. Questo è uno degli esempi, sicuramente sono necessari molti più studi per andare a chiarire il ruolo di altri fattori, per esempio la fibrillazione atriale o la stenosi dei carotidi, che sono fattori di rischio e si associano più frequentemente, si ritrovano più frequentemente nelle persone che dormono a lungo. Questo vuol dire, per rispondere alla tua domanda, che il sonno fa parte di quelle buone norme di vita, quei buoni comportamenti, mantengono il nostro cervello sano, prevenendo l'ictus, d'accordo, ma anche, e citavi per esempio l'Alzheimer o altri disturbi, l'ansia, la depressione, chi dorme male, chi, per esempio, un'altra correlazione che si è vista è fra per esempio persone che ballano molto spesso per ragioni di lavoro, per jet lag o così, il sonno a lungo andare, molto a lungo andare, possono andare più facilmente, possono poi in tarda età andare incontro ad Alzheimer più frequentemente. Questo perché il momento del sonno è un momento fondamentale per riorganizzare, per ripulire, per risistemare il nostro cervello. Quasi che durante il sonno il nostro cervello, no, in qualche modo liberasse le tossine, tra virgolette, vero? C'era stata una ricerca che avevamo commentato. Ci siamo andati vicino, sì, esattamente. Ecco, così. Liberasse le... Ecco, per questo noi abbiamo dedicato e continueremo a dedicare tante puntate sul sonno, sulle regole dell'igiene del sonno e sul non trascurare sia il sonno disturbato e breve, sia invece sonni troppo prolungati, perché come abbiamo avuto modo di sottolineare, prendendo spunto dai risultati di questa ricerca, anche il troppo sonno, i dormiglioni possono rischiare. Ecco, se posso aggiungere... Deve, perché lei è il dottor. Velocissimamente, ecco, bisogna stare attenti nelle persone per cercare a tutti i costi di farli dormire, di darle dentro le pepine, cioè il Tavor, l'alprazolam, insomma, quelli che si danno la sera, perché correlano con un aggravamento dei risultati confusionali nei pazienti che già sono Alzheimer, poi si è visto, una cosa altrettanto pericolosa, che possono poi, nella notte, quando l'anziano magari si alza per andare in parto, facilitare le cadute e le fratture del femore. Quindi perché la sua voce va un po' va e viene, nelle persone anziane, quindi mettiamo dai 65 anni in avanti, dottor Sterzi? Sì. Ecco, attenzione, che hanno disturbi di sonno, generalmente ci si affida a delle terapie farmacologiche, il dottor Sterzi ne ha evidenziato una in particolare, ma è solamente, sono le benzodiazepine o sono in genere tutti questo gruppo, altre classi di farmaci? Le benzodiazepine. Ecco, attenzione, perché in la situazione può aumentare il rischio, senza dimenticare le cadute, perché certo, l'anziano, come tutti noi, magari si alza a fare la pipì, è sotto effetto della terapia, può cadere. Sappiamo che le rotture di femore sono per un anziano un evento pesantissimo. Vorrei dare la linea ai nostri ascoltatori. Sì. Abbiamo risposto all'ascoltatore precedente che dormiva 4 ore noi corso abbiamo, della settimana non, notte, non c'era una risposta, esatto, abbiamo infatti Deborah dato le linee della Sleep National Foundation, perché non abbiamo, come ha anticipato il dottor Sterzi, non possiamo dire ad una persona dormi 6 ore fai bene, dormi 4 ore male, dormi 10, ci sono tante cose che devono essere valutate, e proviamo a farlo anche con René che ci chiama da Milano. Buongiorno René. Buongiorno agli ascoltatori. Anche a noi però, René. Noi no. Agli ascoltatori siete anche voi ascoltatori. Bravo, no? Perché lei parla e noi tacciamo. René, vada. Certo. Nicoletta, no, io posso parlare? Certo. Sì. Allora, intanto devo ancora andare a dormire, ho fatto la notte, no? E sì. Poi ho sbrigato delle faccende, devo ancora andare a dormire, non so quando, probabilmente dopo mangiato, pomeriggio. Sì. E ultimamente mi capita di dormire non più di 4 ore a notte. È un male? È un male, chiede René. 4 ore a notte che per René sono di pomeriggio. Quindi, perché lei, René, è un turnista. No, ma specifico. Mi capita di fare una notte magari la settimana. Però solitamente io faccio lavoro di giorno. Lavora di giorno, ogni tanto gli fa una notte alla settimana, e comunque, dottor Sterzi, René, è un po' il problema del nostro ascoltatore che tu citavi prima del GR, 4 ore per notte. Allora, quando una persona dorme così poco, noi vogliamo oggi dare delle indicazioni di prevenzione sulla salute del cervello, che vuol dire anche la salute del cuore, perché come diciamo sempre sono collegati. Quali indicazioni lei vuole dare alle persone che dormono poco, e soprattutto a che cosa devono prestare attenzione? Il loro rischio, ad esempio, aumenta se sono ipertesi, no? Dico io, certo. Però, dottor Sterzi. Allora, andrebbe fatta una precisazione, che come oggi la medicina tende sempre più a essere personalizzata, cioè ogni persona è diversa, è un progetto, ha una sua fisionomia, delle sue caratteristiche, quindi le generalizzazioni vanno bene entro certi limiti. Allora, ogni persona ha bisogno di un certo numero di ore di sonno. Ci sono esempi, personaggi famosi che dormivano benissimo e sono stati produttivi per tutta la loro vita dormendo poche ore. Bisogna capire se questo sonno è soddisfacente, cioè se uno si alza dicendo che bella dormita che mi sono fatto dopo 4 ore, probabilmente ha bisogno di quello. Così come ci sono, l'avete citato altre volte, le tipologie allodola e le tipologie gufo. Sono quelli che rendono meglio quando devono studiare di notte e ci sono quegli altri che crollano e quindi hanno bisogno di studiare al mattino perché di notte non se ne parla. Quindi ogni persona è diversa e deve capire qual è il meglio per lui e qual è lo standard a cui è abituato. Di certo, e concludo rispondendo al nostro ascoltatore, variare costantemente i ritmi non facilita il sonno, disturba il sonno. Il sonno è un meccanismo molto delicato, un orologino. Se continuamente spostiamo, lo stariamo, poi alla fine magari funziona meno bene. E allora può darsi che queste 4 ore siano poche, e allora le regole che più volte avete citato dell'igiene del sonno possono servire. Ma comunque controllate, sia che dormite tanto, poco, male o bene, oltre a, come diceva il dottor Sterzi, quando vi svegliate, se vi sentite ristorati, controllate anche, questa è l'occasione che vogliamo cogliere in questa parte di Cuore Denari, che parte di sonno, di ictus, controllate la pressione, dottor, e controllate, fatevi dire dal vostro compagno sinceramente se russate e se fate delle interruzioni, se soffrite di apnee del sonno. Andiamo a sentire un ascoltatore? Vogliamo leggere qualche messaggio? Guarda, ci sono tanti messaggi interessanti. Stavo ragionando sul fatto che ognuno avrebbe bisogno di una puntata a sé, perché c'è chi ci chiede se salutare il pisolino. Mi incuriosisce il pisolino, ci piace quello che ci racconta Monica, che dice: io quando dormo sono insvegliabile, è un problema, va proprio in catalessi, praticamente in coma, e quindi poi dice: in media dormo 6 ore, ma devo fare dei multipli di 1 ora e mezza altrimenti non mi sveglio. Pensa come se l'è studiato scientificamente, no, il suo sonno. Poi c'è chi prende la melatonina, anche qua altri capitoli molto molto ampi, immagino. Quindi insomma, dammi un aiuto tu, Nicoletta, chi ma allora sicuramente dottor Sterzi, il pisolino è un tema che ci piace affrontare, perché molte persone sentono proprio la necessità del pisolino e si ristorano, ma soprattutto se per una anche ragione piccolo, di però, ecco, vero? Magari per ragioni di lavoro devono mettere la sveglia anticipata. Il pisolino deve essere buono, ma deve essere breve, dicono le ricerche. Sì, breve, non più di un quarto d'ora. Poi dipende, ci sono proprio anche ragioni culturali, ci sono proprio intere popolazioni che considerano il pisolino come parte integrante della loro organizzazione della giornata. Io il sabato e la domenica il pisolino me lo faccio sempre. Vedi, io invece proprio non sono capace. Non vedo l'ora, mezz'ora io faccio. Bam. È come la nostra amica, nessuno riesce a svegliarmi, poi mi risveglio. Mi scusi, dottor Sterzi, raccontavo 2 cose a Deborah. Mi dica. Assolutamente. No, questo è il lato sano del pisolino. L'unica cosa che mi permetterei di aggiungere è che se uno sente però durante la giornata un incoercibile bisogno di dormire, soprattutto quando guida, allora forse un esame del sonno, si chiamano polisonografia, nei maggiori ospedali, con centri di neurologia si possono fare, può svelare proprio la presenza di apnea da sonno, perché una delle manifestazioni, soprattutto per chi dorme da solo e non è testimone, è la sonnolenza diurna. Quindi deve fare il pisolino perché è abituato, perché il sonno del suo papà lo facevano e anche lui lo fa, è un conto. Però se uno se proprio uno ti cade la palpebra, se uno ha mai fatto il pisolino, a un certo punto sente il bisogno di fare il pisolino, vuol dire che c'è qualcosa nel suo sonno che non va bene, questo va detto. Allora, abbiamo pochi minuti prima di salutarci e di ringraziare naturalmente il dottor Sterzi, che era stato con noi e ci ha tranquillizzato su questa ricerca. Dottor Sterzi, abbiamo accennato all'ictus, no? Partendo dalle ore di sonno. Io vorrei spendere l'ultimo minuto della trasmissione per dire che tra i campanelli d'allarme dell'ictus c'è il TIA, che è l'abbreviazione di attacco ischemico transitorio, che ha gli stessi sintomi di ictus, ma i disturbi neurologici, oculari che lo caratterizzano durano soltanto poche ore o pochi minuti, e in qualche modo, vero, pochi minuti, e se ne vanno entro 24 ore. Quindi attenzione a, dottor Sterzi, ce lo racconti lei che un neurologo è, che di ictus se ne intende, a questi segnali. Sì, perché gli studi che sono fatti finora ci dicono che dopo questo episodio, che apparentemente lo vogliamo descrivere, dottor Sterzi? Ora, improvvisamente capita che una persona non riesce più a parlare con appropriatezza, non vede in metà del campo visivo, perde la forza o la sensibilità a un braccio, una gamba, una combinazione di queste cose. Dopo qualche minuto torna normale, non c'è da perdere tempo, perché si è visto che nelle ore o nei pochi giorni successivi ad un episodio ischemico transitorio, l'acronimo inglese è TIA, è molto probabile che ci sia un ictus. Quindi cosa fare? Comportarsi come se fosse un vero ictus, farsi portare in ambulanza nell'ospedale più qualificato, quello con unità ictus, e lì riceverà tutte le valutazioni che permetteranno di prevenire l'evento più catastrofico. Grazie, grazie dottor Sterzi per queste indicazioni, ci tenevo, perché il TIA è un evento spesso sottovalutato, non bisogna perdere tempo, non bisogna sottovalutarlo, ma recarsi in ospedale e fare tutte le indagini, mi raccomando. Dottor Sterzi, intanto la ringrazio, le auguro una buonissima giornata. Grazie. Se posso... Sì? In 30 posso, secondi vada. Ricordare 30 secondi, ricordare che il mese d'aprile sarà il mese della prevenzione dell'ictus, organizzato dall'Associazione Italiana Lotta all'Ictus Cerebrale, Alice. Allora che noi torneremo, la inviteremo nuovamente. Grazie dottore. Alla prossima. Prego. Alla prossima. Noi abbiamo terminato. Grazie a Marco Lombardi, Isotta Scenna, Carmelo Lauricella. Grazie a noi. Ci ritroviamo qua domani puntuali come sempre alle 11 con Cuore e Denari. Buona giornata a tutti. Buona giornata.